Mario González García ha 21 anni. Studiava nel bacillerato dell'UNAM, l'Università Autonoma di Città del Messico, e si stava organizzando contro le riforme che vogliono fare l'università privata. Fu sospeso ed espulso varie volte dall'UNAM e l'espulsione definitiva arrivò lo scorso aprile 2013. Hubo una expulsión definitiva el año pasado, en abril. En el mismo mes, él fue detenido. Quello stesso mese fu arrestato, accusato da un Walmart di furto aggravato, di furto con violenza. È rimasto incarcerato 3 mesi nel penitenziario norte di Città del Messico. E questo era un pretesto perfetto per le autorità universitarie per espellerlo dall'UNAM. E per cominciare questa campagna che dice che le persone che si dedicano all'attivismo, in qualsiasi ambito, che stanno facendo qualcosa, che stanno facendo un'attività organizzativa, sono vandali, delinquenti. E così cominciò questo discorso in maniera molto insistente. Gli fecero una specie di interrogatorio che non aveva nulla a che fare con il furto di cui era accusato, ma con la sua attività politica. Alla fine, dopo aver organizzato molte mobilitazioni, si riuscì a farlo rilasciare dopo 3 mesi con una sentenza definitiva di 3 mesi, quindi si suppone che aveva scontato la pena. Uscì e rimase fuori 2 mesi e mezzo e continuò a partecipare alle mobilitazioni. Intanto vari studenti e persone che insegnavano nell'UNAM avevano cominciato un presidio nel cortile del rettorato per la reintroduzione degli studenti espulsi e contro le riforme strutturali dell'università, l'aumento dei costi e la diminuzione delle matricole, eccetera. Mentre lui si trova al presidio, qualche giorno prima della marcia del 2 ottobre, l'avvocato generale dell'UNAM gli fa arrivare un documento a nome di Mario e altri 2 studenti, con una minaccia di denuncia, se non avessero terminato il presidio, ma loro decidono di continuare. Il 2 ottobre un contingente di 11 persone si dirigeva alla marcia con un autobus, dal sud della città universitaria verso il centro. Ma prima di arrivare alla piazza di Tlatelolco, dove iniziava la manifestazione, la polizia ferma il bus e con un gran numero di agenti fanno scendere le 11 persone, che di fatto seguivano da quando erano partite e che già sapevano quante erano. Li perquisiscono e dopo, quando arrivarono gli sbirri antisommossa, li cominciarono a picchiare. Non so bene, ma Mario dice che c'erano 10 poliziotti a colpirlo, dandogli scariche elettriche in varie parti del corpo, lo colpiscono con gli scudi, gli tolgono gli effetti personali, una chiave, un telefono e li portano via con delle pattuglie. Non abbiamo saputo dov'era fino a quando ci hanno chiamato dall'ospedale perché dal Ministero Pubblico avevano dovuto trasferirlo a un ospedale a causa delle lesioni che aveva. Le persone detenute furono portate in vari punti della città e così per tutta la giornata restarono praticamente desaparecide fino alla mezzanotte, quando Mario chiamò dall'ospedale e ci disse dov'era, perché prima non gli avevano permesso di fare la telefonata che gli spettava per diritto. Ya nos dijo dónde estaba. Fuimos a Andammo al Ministero Pubblico e c'è da dire che lo avevano portato in un posto molto lontano da dove erano avvenuti gli arresti. Lui aveva una lussazione al braccio, per cui gli avevano messo una benda in ospedale. Però nel Ministero Pubblico gliela tolsero e lo ammarettarono con le mani dietro la schiena, facendogli ancora più male. Lì nel Ministero Pubblico lo intimidarono e lo picchiarono nuovamente e anche se all'inizio aveva 3 accuse, alla fine restò solo una, quella di attacco alla pace pubblica. Il 4 ottobre li trasferiscono di nascosto ai centri di reclusione, a Santa Marta le donne e al reclusorio Oriente i maschi. Anche se per le accuse che gli imputavano sarebbero dovuti uscire con una cauzione direttamente al Ministero Pubblico. Ma anche in questo caso la mobilitazione del dispositivo poliziesco è stata enorme, intimidando tutti quelli che stavano lì in attesa di quello che succedeva. Nel reclusorio li obbligarono a dare la loro dichiarazione e ancora una volta li picchiarono. E il 7 ottobre gli danno una cauzione di 130.000 pesos messicani, più di 7.000 euro per persona. Le cauzioni vengono pagate e la notte sarebbero dovuti essere scarcerati. Ma attorno al carcere si formò un plotone di poliziotti, il che ci sembrava molto strano visto che dovevano essere scarcerati. Mario racconta, non gli davano il foglio che certificava la sua liberazione e che glielo diedero dopo solo per farlo uscire nel cortile del carcere quando lo picchiarono, nell'occasione gli coprirono il volto e lo incarcerarono di nuovo. Anche questa seconda detenzione fa parte delle varie irregolarità del caso di Mario, perché non avvisarono la difesa, gli avvocati di Mario, e alla fine la scusa fu che lo consideravano una persona di alta pericolosità sociale. La giudice suppose che si sarebbe potuto dare alla fuga, quindi decise di togliergli il diritto alla libertà, senza avere altri motivi. Mario dovette attendere lì il suo processo, che durò circa 4 mesi, fino a che fu sentenziato a marzo. Quindi Mario, per reagire a questa seconda detenzione, cominciò uno sciopero della fame l'8 ottobre e decide di concluderlo il 3 dicembre, quindi durò 56 giorni. Durante questo periodo le udienze si rimandavano puntualmente. Una volta la giudice non convocava i poliziotti, un'altra volta i poliziotti non si presentavano. Per le udienze che di norma si sarebbero dovute posticipare 5 giorni, succedeva che la giudice le posticipava un mese o varie settimane, mentre Mario era in sciopero della fame. Da un altro lato, va detto che il reclusorio Oriente è uno dei più sovrappopolati di Città del Messico, quindi mentre lui era in sciopero della fame, si trovava nella cella con altre 16 persone, quando le celle sarebbero per 4 detenuti, e ovviamente gli altri detenuti mangiavano davanti a lui. Le autorità fecero di tutto per fargli interrompere lo sciopero della fame, lo intimidavano, lo minacciavano, gli promettevano molte cose e provavano in molti modi a fargli interrompere lo sciopero, fino a quando lo trasferirono in un ospedale, dove si trova tuttora, e questo avveniva quando già aveva compiuto 40 giorni di sciopero della fame. Si trovava lì nell'ospedale quando arrivò la sentenza. Il processo terminò a dicembre e il 10 gennaio lo sentenziarono a 5 anni e 9 mesi. I denuncianti sono 6 poliziotti che come unica prova hanno la loro stessa testimonianza e dicono che loro non hanno presenziato i fatti, ma che qualcuno le ha detto che delle persone avevano lanciato degli esplosivi. Ma questo non si è mai potuto provare. Nemmeno mediante la loro perizia è stato mai provato. E loro stessi testimoniano di non aver trovato nulla addosso a Mario nel momento della detenzione. Ma nonostante ciò capiamo benissimo che non è una questione se ci sono o meno più o meno prove. La loro basta che ce ne sia una. E questo reato si usa per questo. In esso rientra quasi qualsiasi accusa, qualsiasi cosa, e non c'è bisogno di provarlo. Successivamente ci fu il processo legale, che è consistito nell'appello alla sentenza, e il risultato dell'appello è uscito il 21 marzo di quest'anno, non facendo altro che confermare la sentenza, adducendo che non ci sono irregolarità, che è colpevole e che deve passare 5 anni e 9 mesi in carcere. Dopo ci fu il ricorso alla sentenza, che è terminato a giugno, e anche in quel caso non hanno voluto affrontare tutta la questione della violazione di quelli che loro chiamano diritti processuali, e diritti umani, infatti, in questi casi dovrebbero lasciarlo in libertà. Ma visto che non vogliono liberarlo, hanno rimandato il processo all'appello. E qualche settimana fa ci fu l'udienza e la nuova sentenza è stata di 5 anni, 1 mese e 15 giorni e alla fine non cambia niente. Il senso è dargli una sentenza che non rientri nei limiti per cui si può uscire pagando una cauzione, cioè 5 anni. Si tratta di una presa per il culo, non cambia nulla, stanno giocando con la sua libertà. Altra questione è che Mario è già detenuto da più di 9 mesi, ma lui non ha intenzione di uscire con una sentenza di 3 o 4 anni, dove dovrebbe andare a firmare, e adesso rifaremo ricorso alla sentenza, ma queste cose vanno per le lunghe. Ci sono processi che durano 10 anni, persone a cui non danno mai una sentenza definitiva, perché i processi sono rimandati continuamente per irregolarità. E in questo caso l'intenzione è la stessa, prolungarlo il più possibile per mantenerlo in carcere e per cercare di debilitare le energie delle persone che si solidarizzano da fuori. Sin dall'inizio, da quando Mario è stato arrestato, ci sono state irregolarità in tutto il processo. È stato arrestato in una maniera che per il loro stesso giuridismo è illegale, perché non è stato arrestato in flagranza di delitto e nemmeno perché aveva un mandato di arresto contro di lui. E quindi già solo per questo non si capisce perché dovrebbe continuare a rimanere in stato d'arresto, né perché l'arresto è avvenuto in questa maniera. Poi fu torturato, impossibilitato a comunicare, le udienze furono prolungate, le sentenze date senza che ci fossero prove. Si tratta di un processo che dalle stesse origini non ha né capo né coda. E sappiamo che il sistema non sta rispettando nemmeno le stesse leggi su cui si sostenta. Quindi pensiamo che questa non è la forma giusta. Continueremo a lottare anche per questa via legale e stiamo facendo un ricorso. Sin dall'inizio esigiamo la libertà assoluta e incondizionata di Mario e in questo senso lo sciopero della fame è stato un aspetto importante che ha aiutato a diffondere il suo caso. Qui a Città del Messico c'è un'altra cosa, la divisione fra manifestanti buoni e cattivi, e quindi lui era catalogato tra quelli cattivi. Fra le varie irregolarità, visto che non esistevano argomenti giuridici validi per mantenere Mario in carcere, quello che la giudice dichiara è che si tratta di una persona pericolosa, anche senza giustificare i motivi di questa presunta pericolosità o in che cosa radica la sua pericolosità. E un'altra cosa che dice è che, siccome Mario ha avuto un precedente processo penale, ciò rappresenta un rischio. Questa è una cosa che giuridicamente non esiste, non c'è scritto da nessuna parte che se una persona ha avuto un processo precedente non possa poi uscire di carcere pagando con una cauzione. Inoltre la giudice dice che siccome Mario è originario dello stato del Chiapas è molto probabile che si dia alla fuga e che non continui il suo processo. E come dicevo prima, c'è questa divisione fra manifestanti buoni e cattivi, quindi ci sono anche collettivi e organizzazioni che dicono: oh, quello è già stato in carcere, come si può difendere uno che è già stato in carcere? O anche, è che essendo anarchico forse qualcosa l'ha fatto davvero, forse davvero ha lanciato degli esplosivi e quindi non lo possiamo difendere. Voglio dire che esisteva anche nello stesso movimento sociale gente che non era disposta ad includerlo fra quelli che bisogna appoggiare. I mezzi di comunicazione non l'hanno mai menzionato e nemmeno le organizzazioni di diritti umani. Quindi fu grazie allo sciopero della fame di Mario e a quello che facciamo qui fuori che si è riusciti a dare tutta questa diffusione. E soprattutto Mario ha sempre rivendicato che se si trova in prigione era per le sue idee e le sue pratiche ed inoltre si rivendicava come anarchico. E questo per dire che ci sono casi in cui le persone si appellano al fatto che si trovavano lì per caso, che non sono attivisti e che sono innocenti e quindi devono essere liberi. Nel caso di Mario, lui dice: se voi pensate che per essere anarchico devo stare in prigione, resto qui. Questo ha generato molta solidarietà. Si sono fatte azioni in molti altri stati della Repubblica Messicana e in molti altri posti del mondo. In diversi momenti abbiamo chiamato ad esprimere solidarietà nella maniera in cui ognuno poteva o riteneva conveniente. Si sono fatti tutti i tipi di attività, informative, di diffusione, eventi culturali, blocchi stradali, manifestazioni e molte cose in molti posti. E pensiamo che queste cose ci abbiano aiutato e soprattutto dato forza per continuare a lottare. Qua a Città del Messico non siamo molte le persone che stanno cercando in tutti i modi la libertà di Mario. E questa solidarietà aiuta anche lui. Il sapere che la situazione si sta conoscendo, per esempio, ha già stabilito contatto con altri prigionieri di altri posti. Continueremo ad aver bisogno di solidarietà. La informazione si trova e aggiorna in un blog: solidaridadmariogonzales.wordpress.com. Si può anche fare domande o mandare qualsiasi informazione scrivendo una mail a solidaridadmariogonzales@riseup.net. E c'è anche una pagina Facebook che è Mario Libre e anche lì si può trovare informazione.